Europa 24. Nonostante le molte polemiche dall'Italia, il bilancio 2017 dell'Unione Europea diventa esecutivo. È arrivato poco fa l'ok formale del Parlamento con la firma, l'ultima dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente Martin Schulz. Il budget europeo per il prossimo anno sarà di 157,9 miliardi in impegno e 134,5 in sovvenzioni. Aumentate in particolare le risorse a favore di migranti e giovani. Un saluto da Anna Migliorati, benvenuti al nostro spazio europeo anche oggi e nel bilancio europeo spazio per l'Italia. Il Parlamento ha approvato questa mattina con un'ampia maggioranza una risoluzione che chiede di velocizzare la mobilitazione del Fondo di Solidarietà per le zone colpite dal terremoto e di escludere gli investimenti per la ricostruzione dal calcolo del deficit previsto dal patto di stabilità. Un testo votato oggi e calendarizzato prima che ieri in realtà la Commissione europea avanzasse una proposta ancora più ambiziosa. Tutta la ricostruzione del terremoto in centro Italia finanziata con fondi UE. Lo ha proposto il commissario europeo alle politiche regionali Corina Cretu in un dibattito al Parlamento europeo. Bruxelles, che ha già erogato una prima tranche di aiuti per un totale di 30 milioni di euro come anticipo dal Fondo di Solidarietà, propone così di modificare il regolamento sulla politica di coesione 2014-2020 e di introdurre la possibilità di finanziare totalmente la ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'Italia riceverà intanto il versamento di 30 milioni di euro, l'importo più alto che poteva essere versato a titolo di anticipo, entro una settimana. Una volta che le autorità italiane avranno concluso la valutazione dei danni causati dal terremoto, Bruxelles proporrà un importo definitivo dell'aiuto da sottoporre all'ok del Parlamento e del Consiglio UE. L'esecutivo comunitario ha deciso anche di proporre il cofinanziamento fino al 100% delle operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali. La proposta potrà essere utilizzata da tutti i 28, ma se avrà il via libera verrà usata per prima dall'Italia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo del Regno Unito sarebbe pronto a valutare la possibilità di pagare all'Unione Europea contributi anche dopo la Brexit, pur di mantenere l'accesso al mercato unico. Un annuncio a sorpresa in Parlamento questa mattina dal ministro per la Brexit, David Davis, secondo cui l'obiettivo del governo May resta quello di ottenere il miglior accesso possibile di beni e servizi al mercato europeo anche quando il divorzio di Londra da Bruxelles sarà formalizzato. Insomma, l'Europa potrebbe non perdere nei prossimi bilanci l'apporto economico britannico. Una vittoria italiana, si plaude da Roma, Bruxelles pronta a cambiare le regole per gli e-book. Novità importanti sul fronte del commercio online in Europa, a proporre la Commissione all'interno di un pacchetto dedicato che ha nei libri elettronici o e-books la parte più innovativa. Bruxelles propone nello specifico di rendere i paesi liberi di tagliare l'IVA per e-book e pubblicazioni digitali allo stesso livello di tassazione ridotta già in vigore per libri e giornali cartacei. L'obiettivo più generale del pacchetto è semplificare il sistema e aggiornarlo per sostenere lo sviluppo dell'e-commerce transfrontaliero in Europa e spingere anche il business delle PMI. Le altre misure prevedono l'obbligo di registrazione delle imprese che vendono online a un unico portale nel proprio paese per pagare l'IVA, tagliando i costi del 95%, grazie al fatto che non dovranno più versare imposte in ciascuno dei paesi dove la vendita materialmente avviene. Nel caso in cui le vendite online all'estero restino sotto i 10.000 euro l'anno, le PMI dovranno pagare l'IVA solo nello stato in cui hanno sede. Una seconda soglia intermedia, sino a 100.000 euro, prevede invece una semplificazione delle regole per il pagamento IVA. È l'ultimo pezzo del puzzle che non solo spingerà le imprese più piccole e le start-up, ma renderà anche i servizi pubblici più efficienti, ha commentato il vicepresidente della commissione ANSIP, Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera ufficiale intanto ad un altro accordo, introdurrà standard più esigenti e vincolanti per la protezione dei dati personali scambiati dalle autorità giudiziarie e di polizia sulle due sponde dell'Atlantico. L'Europarlamento ha approvato l'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sulla privacy a tutela dei diritti dei cittadini europei, accordo che ricordiamo fu rinegoziato dopo lo scandalo del Datagate. Per ora ci fermiamo qui, un buon pomeriggio, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, ma l'Europa come sempre vi aspetta questa sera alle 21 con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.